the bylanes of Valeria East. Behold, Chuck D with DMC and Wild Wild Women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Their eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm struggling, rolling, glowing. I looked at the mirror, caught the drawer drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing. 19.02, le 12 erano, furono 24 giugno però, quindi siamo in diretta direttissima sulle 87.9 di Radio Onda Rossa e sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Doing okay, I'm doing okay, doing okay, I'm not sub say yeah, such a sub say yeah, on guard the play yeah. Questa è la puntata numero 117 ed è anche l'ultima puntata di questa quarta stagione di Likewise. हमारी इतनी शक्ति है कि हमसे अब तुम्हारी फटती है तेरे क्यों मुन्नवा जाने दे चुके ना मोनेन्यान वीरना सुपरा नम्बरा In the cusp of 2022 blossoms a feminine revolution spreading positivity and light every day a woman's day every day a new fight but we play and we play we're doing okay. E sicuramente ci mancheranno le Wild Wild Women con MCD che cantavano la nuova sigla di quest'anno, Doing OK. Andatevele a cercare comunque perché sono un collettivo, ne abbiamo parlato all'inizio stagione, sono un collettivo indiano di rapper, rapper, skater, fanno sì. Visual artist, fanno un po' di tutto, si sono messi insieme, hanno fatto questo collettivo appunto che fa delle cose molto fighe, tra cui anche la canzone che abbiamo scelto come nostra sigla. Come sapete, ve lo ricordiamo per l'ultima volta, almeno fino alla prossima stagione, Likewise è una selezione di nuove uscite di artiste, artiste, donne, trans, non binary, prevalentemente produzioni indipendenti, con una manciata di racconti, storie e notizie come piacciono a noi. Potete sempre scriverci, anche se non siamo in onda, a likewise@ondarossa.info, iscrivervi al nostro canale Telegram likewise_trx per ricevere i podcast delle trasmissioni che avete perso o appunto le nostre playlist. E se no le potete cercare sul sito della radio www.ondarossa.info, cercate Likewise o likewise_trx e vi escono le puntate di tutte e quattro le stagioni, quindi potete per comodità, se cercate solo quelle di quest'anno, magari se cercate per anno, Likewise per anno, vi escono tutte quelle di quest'anno, da gennaio però, attenzione. Quindi questa 117ª puntata che facciamo? Mettiamo un pezzo e poi cominciamo a chiacchierare un po' di quello che è il tema che abbiamo scelto per concludere questa stagione, che ne dici Clo? Va bene? Sì sì, tanto ne abbiamo tantissimi, mettiamo un po' di musica. Loro sono Sleepy, Leave My Bum Alone. Questa era Leave My Bum Alone di Sleepy, una band bolognese. L'album è 8106. Sarà il prefisso, il cap di qualcosa, non lo sappiamo. Insomma, perché abbiamo messo questa, cioè qual è stato il criterio di selezione di questa settimana, di questa ultima puntata? Beh, come vi accennavamo nella scorsa puntata, volevamo raccontarvi un po' di festival indipendenti, di piccoli festival che sono piccoli e grandi, perché in realtà ce ne sono anche alcuni un po' più grandicelli che sono in giro, soprattutto in Italia, con qualche incursione all'estero, e che appunto vi consigliamo, se potete, se siete da quelle parti, di andare a vedere, un po', diciamo, prendendo spunto da questa insomma questione che abbiamo più volte quest'anno riproposto, prendendo spunto da post, articoli e insomma lettere aperte di moltissime artiste e band che hanno sollevato la questione, cioè il problema dei finanziamenti, degli sponsor sporchi, diciamoci proprio le cose come stanno, di moltissimi festival musicali, soprattutto di un grande sistema, diciamo una grande bolla che nella quale non ci guadagna nessuno se non le grandi aziende che hanno comprato pacchetti di festival, esatto, e diciamo di appunto fondi, cioè sponsor che in realtà finanziano la guerra in tutti i sensi, in particolare quello che sta succedendo in Palestina, ma non solo. Sì, è vero, ci sono moltissime questioni sul banco, dai prezzi dei concerti. In realtà in questa settimana io e Donna ci siamo scambiati diversi articoli, perché comunque è un tema caldo questo dei live: ci si guadagna, non ci guadagna, ci guadagna l'artista, non ci guadagna per nessuno, costano troppo, non interessano più, interessano molto. Quindi è anche un tema abbastanza complesso. Questo è certo, sicuramente i grandissimi festival, quelli che diciamo si sono fatti una nomea alla fine degli anni 90, inizi tutti gli anni 2000, tipo il Sonar è uno di questi, attraversano un grande momento di quantomeno criticità da parte di chi li ha sempre frequentati e amati moltissimo, per varie questioni, non ultima chiaramente il boicottaggio internazionale che c'è anche nell'industria, comunque non nell'industria, nelle persone che fanno musica e nelle persone che ascoltano musica, per il genocidio che è in atto in Palestina, non c'è bisogno di ricordarlo chiaramente da questi microfoni, però c'è tutto un grandissimo movimento e molti hanno iniziato a spulciarsi a chi in mano sono questi festival, chi è che li organizza, o meglio chi è che ci mette i soldi e poi ci prende i profitti, perché la verità è quello, perché organizzarli poi li organizza magari persone normalissime come potremmo essere io e te, però poi alla fine chi ha messo i soldi sono questi fondi di investimento grandi e si sono comprati 3, 4, 5, 6, 7, 12 come è il capitalismo, 80 di festival famosi con un brand molto forte, perché di quello stiamo parlando, perché siamo pienamente nel capitalismo con questo discorso. Però poi appunto sono fondi che investono in armi, che vengono direttamente o comunque in qualche modo c'è dentro pure Israele proprio come Stato, sì. Quindi è problematico, quindi sono iniziati grandi boicottaggi, è degli artisti e delle persone. Se vi va di approfondire questo argomento in particolare, nel mese di maggio, il mese scorso, è uscito un articolo, una inchiesta, un articolo che è frutto di un'inchiesta di un giornale indipendente spagnolo che si chiama El Salto, e potete leggere liberamente su web questo articolo, in cui appunto i due giornalisti che si sono occupati di questa inchiesta hanno svelato un po' quello che fondamentalmente è successo quando la Superstruct Entertainment, che era già sotto diciamo accusa, già ampiamente criticata per avere monopolizzato i festival, praticamente proprietaria di 80 festival in tutto il mondo, quindi insomma tra cui appunto il già citato Sonar, ma non solo, è stata poi l'anno scorso acquisita da un fondo di investimento che si chiama KKR è svelato appunto, insomma si poteva sapere in altri modi, ma in questo articolo è chiaramente svelato come sia vicino a posizioni pro-israeliane e come sostanzialmente con i suoi fondi finanzi molte operazioni, diciamo, militari, in particolare quelle che riguardano la cybersicurezza, la tecnologia informatica che viene utilizzata, come sappiamo, sempre più diciamo fortemente nelle azioni di guerra, di oppressione, di assassinio, di genocidi che sono attualmente in corso. E quindi, insomma, questo, a seguito di questo articolo che, insomma, ha chiaramente messo sul banco proprio tutto quello che c'era da dire, molte, diciamo, anche delle strutture politiche, anche dei gruppi parlamentari, per esempio il governo spagnolo, hanno accusato KKR di finanziare appunto la pulizia etnica in Cisgiordania, ma non solo, anche altre terribili azioni, e quindi hanno chiesto pubblicamente di fermare questo tipo di sponsorizzazione. Quando al Sonar, cioè all'organizzazione del Sonar, è stato chiesto, diciamo, conto di questa cosa, loro hanno, come dicevamo nella scorsa puntata, ripulito un po' di facciata, tirando fuori McDonald's e l'altra azienda, Amazon credo che fosse, insomma un'altra azienda, Coca-Cola credo che sia, dagli sponsor ufficiali, ma in sostanza, diciamo, la struttura fondamentale rimane la stessa, e quindi il festival rimane, questo ed altri festival rimangono sostanzialmente finanziati in questo modo. Avevamo citato anche nella scorsa puntata, per chi non l'avesse seguita, il post pubblico che Sama Abdulladi aveva scritto e pubblicato, esponendo le sue perplessità in seguito anche a queste notizie, perché appunto lei era in programma il venerdì proprio al Festival Sonar, e alla fine appunto vi confermiamo che ha deciso di non partecipare al festival, lei e tantissime altre artiste, soprattutto spagnole. Eh sì, perché comunque in Spagna, tra l'altro, anche perché c'è una posizione molto diversa del governo, comunque sono molto forti sia le posizioni contro il genocidio in Palestina che contro per la solidarietà con i palestinesi, eccetera, quindi non mi meraviglia questo dato. Poi sul Sonar potremmo fare una postilla, ma la facciamo dopo una canzone. Loro sono Dummy, Nine Clean Nails. Bye. questa era la band Dummy, Nine Clean Nails. Le band, le artiste che ascolterete quest'oggi sono in realtà o passate o passeranno nei festival che citeremo, quindi insomma in ordine sparso. Sì, queste in realtà loro per esempio sono già state in Italia, sono passate diciamo nel mese di giugno, quindi hanno attraversato qualche festival che c'è già stato in diverse località. In particolare sono stati alla quarta edizione della Forest Festival, che si tiene intorno a Brescia al Palazzo Cigola Martinoni di Cigole, chi lo sa, non lo so. Vabbè, che è Cigole è più bello. Cigole è più bello, ma non lo so, potrebbe non essere. Che è un festival a ingresso gratuito, che questo cominciamo anche a dirlo, perché ci sono, non ne sono rimasti tantissimi, ma in realtà quelli che citiamo molti lo sono, o comunque hanno dei pass giornalieri che hanno dei prezzi in qualche modo che sono ancora sostenibili per andare a vedere 5, 6, 7 artiste suonare, perché di quello stiamo parlando. Tra l'altro non sono tantissimi i festival che sono rimasti con la formula festival, cioè nel senso un paio di giorni, due, tre giorni, però con una line up un po' lunga. Invece adesso molti chiamano festival il lungo mese di programmazione estiva che c'è, che ne so, a Ferrara, piuttosto che una data Antizio, una data cioè non è che c'è poi una programmazione più attenta a fare contente tutte e tutti, molto mainstream, ma che appunto difficilmente poi ti fa scoprire qualcosa di nuovo. E questo noi chiacchieravamo l'altro giorno, perché anche a partendo proprio anche dal Sonar stesso, che per chi non lo sapesse è un festival che è diventato famosissimo, che c'è a Barcellona il terzo weekend di giugno da forse 20 anni, forse probabilmente sì, 20 probabilmente. E che ha sempre ovviamente attirato tantissimo pubblico, perché si andavano a sentire, oltre a grandissimi artisti in qualche modo già famosi e conosciuti, ma anche tantissima musica nuova di artisti sconosciuti o semi sconosciuti, perché c'è una line up molto molto grande, le giornate sono molto lunghe, e quindi si aveva questa possibilità di scoprire nuovi artisti, che poi un po' era il senso dei festival di una volta. È vero che c'è sempre stato il nome in due tre nomi di richiamo, ma poi attorno c'è sempre, almeno chi ha fatto per questo lavoro con amore e con passione della musica, ci ha sempre messo invece accanto artisti sconosciuti, in modo che chi arriva al festival per sentire magari l'artista più grande, magari però scopre anche nuova musica, che poi era un po' il senso di stare insieme, scoprire nuova musica e cantare le cose che tu ami e ti piacciono, quindi in qualche modo fare un po' tutte e tre le cose. Una delle critiche del Sonar che abbiamo letto in un articolo, che qualcuno si chiedeva, qualcuno che lo frequenta da lunghissima data, se tutto questo non sia cominciando in questi festival molto grandi e con tutte queste questioni dietro, quindi molti soldi, molti profitti, molti soldi per organizzarlo, tanti profitti che si vogliono fare, se si stia cominciando ad appiattire un po' anche la scelta musicale, per poter non avere rischi in qualche modo, quindi stare sempre dentro un circuito che sei sicuro che sicuramente fa il pieno e non altro. Sicuramente ci sono tante considerazioni da fare da questo punto di vista. Sicuramente leggevo anche appunto in questi giorni, mentre spulciavamo varie notizie e vari approfondimenti, anche il fatto che è cambiata la popolazione, diciamo, che va a questi grandi festival, in particolare diciamo quella che viene definita la generazione Z, insomma Z come vogliamo, cioè quella che fondamentalmente tra i 15 e i 30 anni sostanzialmente in questo momento è quella che fondamentalmente è la parte più preponderante di chi va a questi festival che costano diciamo uno sproposito, nel senso che sono generalmente pass per appunto un due o tre giorni di festival, stiamo tranquillamente sopra i 150 euro, sì. Se non sopra giù di lì, sì. O se non molto sopra di questa cifra, quindi insomma anche un impegno importante, oltre ad arrivare dove devi arrivare, oltre a dover stare lì, mangiare eccetera, quindi è un vero e proprio investimento fondamentalmente. E pare che insomma la generazione che più in qualche modo investe in questa cosa, evidentemente più per vivere quella situazione evidentemente, più che per ascoltare la musica nel vero, diciamo nel senso più stretto è questo tipo di generazione. Le persone un po' più grandi probabilmente hanno che forse queste cose le hanno già fatte in qualche modo, hanno anche più facilità a staccarsi da questi eventi. Io per esempio non l'ho mai fatto, però insomma, quindi è più facile per me, ma in ogni caso preferiscono magari festival un po' più piccoli. Una piccola sezione, ovviamente non abbiamo nessuna velleità di esaustività in questo elenco, anzi se vi viene in mente qualcuno, se avete pensato di partecipare a un festival nei prossimi mesi estivi o se siete stati a un festival nelle settimane scorse, sì, ce lo potete far sapere allo 0649 1750 e magari consigliarlo per il prossimo anno o per chi ancora può andarci. Sicuramente dei festival passati, quindi proprio all'inizio giugno, ce n'è uno molto interessante che si chiama Handmade Festival, quindi insomma è proprio anche il titolo del festival lo spiega bene, che è organizzato da volontari già da parecchi anni, senza sponsor, non ci sono patrocini commerciali, è autofinanziato e tutto quello che viene incassato nell'anno precedente viene messo nel fondo cassa per l'anno successivo. C'è una bellissima line up, devo dire, si tiene a Guastalla in provincia di Reggio Emilia tra il 7 e l'8 giugno, almeno quest'anno si è tenuto il 7 e l'8 giugno, e devo dire che c'era una line up di tutto rispetto. Vi cito così a braccio mentre scorro le pagine: Moin, per esempio, che insomma è una band che ci piace molto, Laura Agnus Day, c'era Jack Name, Silenzio Prime, c'era TV Dust, Francesca Bono che è passata da queste parti, Coco Moon, insomma veramente una tantissima musica da ascoltare e molto interessante, che seguiva anche vari generi, anche John Spencer con la nuova formazione Youth Legon, insomma tante belle cose. Un altro festival che è passato già, insomma, che da qualche anno è felicemente vivo e vegeto, è il Beach Brew Festival, insomma legato da più di qualche anno, sì, ne festeggia la 12, esatto, l'hanno festeggiato anzi, che anche quest'anno insomma si è tenuto ad inizio giugno, penso proprio nella prima settimana se non ricordo male, e anche lì insomma nella line up che noi ci siamo perse personalmente, speriamo non voi, c'erano Nidia e Valentina per esempio che sono passate a Likewise, Masma Dream World che è passata a Likewise, c'era anche Moin di nuovo, anche Sleep E che avete sentito in apertura, insomma Dammi e tante altre cose interessanti, Marie Davidson, esatto. Molte cose che sono passate anche qui da Likewise, quindi chi è andato a quel festival, bella, ce lo raccontasse, ci chiamasse 0649 1750. Noi ci ascoltiamo ancora qualche artista che è in giro per questi festival che ci sono e che ci saranno. Per esempio Baby Volcano, Delish. A ver pues, let me tell you something. First I'm gonna hide and then I'm gonna cry. Then I realize I woke up and I fight. Boca de leche, lie on the bar, la la toma su café caliente, la cosa suave te mantiene de pie, besito en la boca, besito en la boca. Questa è la Baby Volcano con Delish. Anche lei si esibirà in uno dei festival che citeremo. Sarà voi a scoprire quale. Allora, uno dei primi festival che volevamo menzionare è il Fritz Festival, che è la settima edizione. Questa edizione si chiama La crisi del settimo anno, che mi sembra un titolo fantastico. Si terrà il 28, 29 e 30 luglio al Polo Culturale Cappuccini, che è praticamente profondo sud, diciamolo. E non ce ne sono tanti festival al profondo sud. Non mi ricordo se è Sala Consilina a Salerno, ma adesso lo controllo. Credo Sala Consilina. Esatto. Perché mi aveva colpito. Esatto, che è in provincia. In ogni caso, ci fa piacere nominarlo, appunto perché è un festival del sud. Ce ne sono molti, nella nostra lista, non solo, ovviamente. Non si fa piacere vedere una line-up quasi totalmente maschile, a parte un paio di incursioni, tra cui Lauryn e Calliope, che è appunto una band con una frontwoman. Ma quello che vogliamo sottolineare di interessante di questo festival è che c'è una lineup super giovane, quindi insomma artisti che hanno bisogno di avere il palco a disposizione per poter suonare. Questa è una bella cosa, e soprattutto in zone del paese che solitamente non brillano per momenti culturali collettivi o comunque appunto motivi e momenti di aggregazione, quindi non male. Ce ne sono diversi festival nel sud, quello è vero, ma per esempio io ho dato un'occhiata a tanti festival che stanno insomma nelle due terre che ho nel cuore, e molti sono festival molto grossi, molto ormai istituzionalizzati e anche quindi molto costosi. Ho visto i prezzi del festival all'Ortigia, che capisco che è un rinomato per avere un turismo molto d'élite, ma sono inavvicinabili, 130 sono inavvicinabili. Ci dispiace anche sapere che l'Ipsig Rock Festival di Castelbuono in provincia di Palermo in Sicilia, che ormai è diventato un festival iconico, insomma, che è ospitato nel borgo medievale di Castelbuono, quindi insomma in una location anche super suggestiva, è diventato a mano insomma. Loro propongono tre giorni di veramente grandissima musica, grandi nomi, ma non solo, però effettivamente un full pass per tre giorni di 120 euro più un campeggio che costa 45 euro è un prezzo che non tutte possono permettersi, soprattutto perché in Sicilia ci deve arrivare, non per cattiveria, però nel senso, sì, forse chi vive là ammortizza quel costo, ma chi non vive lì, se ci metti pure che magari deve arrivare dal continente, insomma, un po' più lunga. Vi facciamo sentire un altro pezzo. Lei è Francesca Bono, Fracture. I hear that voice, it says that I Questa è la Francesca Bono con Fracture, questa è Likewise e state ascoltando Radio Onda Rossa. Sulle 87.9 in modulazione di frequenza, oppure ci state ascoltando in DAB a Roma, Terni e Perugia cercando Onda Rossa sul DAB, oppure ci state ascoltando in streaming dal sito ondarossa.info. In ogni caso, ovunque voi siate, vi salutiamo. E volevamo parlare anche, c'è un festival che è alla sua prima edizione quest'anno, sono due giorni, si svolge a Torino, si chiama Monitor. Si svolge allo spazio 211 il 10 e l'11 luglio e ha dei nomi che in qualche modo mi hanno attirato, perché ci sono un po' di artiste che sono passate da Likewise, come Arjo Aftab, e c'è Maria Chiara Argirò. E poi gli altri nomi che sono in cartellone, che sono insomma quelli un po' più grandi, perché ci saranno oltre 30 artiste e artisti, e tra l'altro il progetto parla di una parità, insomma, tra artiste donne e artisti uomini, quindi in qualche modo si vede che ci hanno anche messo un attimo la testa, e che non è una cattiva idea, perché abbiamo visto tanti festival interessanti che volevamo anche proporvi. Ce n'è uno in Sicilia, a Milo, molto bello, di musica insomma in qualche modo elettronica, interessantissimo. Per esempio c'è una line up dove forse ci stanno una, due artiste massimo, e quindi insomma un po' un peccato. Questo è un problema che continua a esserci in ogni caso in Italia. Comunque il Monitor Festival si svolge al 10 e l'11 luglio, ve l'ho detto. Ci saranno Shame, Look At, In, Richard Donson, Gia Ford, e appunto poi chiuderà la serata del venerdì Arjo Aftab, che sarà aperta da Maria Chiara Argirò. Io, se potessi, andrei sabato, per esempio. Un altro festival che ci siamo persi, che forse vi siete persi anche voi, che era dal 13 al 15 giugno, era il Glen Festival, un piccolo festival abruzzese in un paesino che si chiama Arsita, diciamo immersa nel Gran Sasso, quindi anche in una location fantastica. E io ho visto un po' di video delle scorse edizioni e ho letto appunto che quest'anno hanno fatto sold out per la prima volta nella loro storia, credo sia il quinto anno che il festival si tiene, e insomma c'era grande entusiasmo, soprattutto perché tutto è autofinanziato appunto attraverso il crowdfunding, attraverso appunto il rimettere in circolo i soldi della edizione precedente, e quindi insomma biglietti sono biglietti abbordabili, insomma le giornate costavano meno di 20 euro. Così si può fare, almeno uno ne può vedere un po' di più, un po' più di uno. E inoltre appunto c'era in questo video, magari cercate Glen Festival, c'era anche appunto era molto divertente perché le persone che abitano in questo posto, quindi locals, anziché vedersi arrivare orde di gente che prende possesso del territorio, lo sfrutta e poi se ne va, in qualche modo partecipavano anche a tutta quella che non solo l'accoglienza, ma anche a tutta una serie di altre cose. Ci sono video girati con le persone del posto, insomma chiacchiere, condivisione, quindi insomma un atteggiamento e una predisposizione a un confronto con il territorio che non è di sfruttamento, ma è di collaborazione e di copartecipazione. E questo è stato un altro tema grandissimo, soprattutto negli anni scorsi. Non nominiamo l'artista che ha distrutto le spiagge non c'è bisogno di nominarlo perché appunto lo possiamo nominare seguito da una bestemmia, ecco. La Jovanotti, che ovviamente ha fatto questi mega concertoni sulla spiaggia, quando gli è stato detto ma lì nidificano, adesso non mi ricordo quale specie precisa di uccelli, eccetera eccetera eccetera, hanno lasciato un macello, perché chiaramente un conto che tu fai un festival che sì, avrà fatto sold out, ma chiaramente immagino che i numeri sono numeri che possono essere in qualche modo assorbiti e contenuti dal territorio, e questa è una questione veramente importante, perché credo sia veramente bello poter ascoltare musica in mezzo alla natura o in mezzo a posti in qualche modo dove c'è un certo silenzio, che quindi si sente molto bene la musica, eccetera eccetera eccetera, ma questo dovrebbe andare di pari passo con un'attenzione sia a chi vive quei luoghi e anche a un coinvolgimento un po' a fare le cose esattamente opposte a come le vorrebbe fare il capitalismo. In realtà è molto semplice, è molto come, semplice come discorso. Basterebbe andare all'opposto di quello che fa il capitalismo e potrebbe funzionare. In realtà funziona. C'è un festival, insomma, che sembra molto interessante. Si chiama Tones Teatro Natura. Si tiene in provincia del Verbano Cusio Ossola, quindi in Val d'Ossola, in Piemonte. Ed è in realtà, diciamo, ingloba. Si chiama Tones Teatro Natura, ma ingloba diversi momenti di festival che legati ad arti diverse. Quindi da giugno a settembre ci sono vari eventi e piccoli mini festival all'interno di questo grande programma. In particolare dal 17 al 20 luglio si terrà il Next Tones, che è appunto non abbordabilissimo da un punto di vista del pass più campeggio, perché noi immaginiamo sempre, almeno noi facciamo così, quando andiamo in un posto poi vogliamo stare lì a vivere l'atmosfera completa, goderci lo spazio, appunto, anche perché si tratta di posti veramente incantevoli da un punto di vista scenografico e paesaggistico. In particolare, comunque, in questa line up c'è anche un artista che sarà in giro praticamente in tutti i festival possibili e immaginabili. Lei si chiama Joan Tile, ce l'andiamo a ascoltare con XXLA. La mia testa vola più veloce quando sei nella mia stanza. Vestiti di fretta, sole rosso, usciamo da qui, sento l'aria. Caldo nel mio corpo, occhi, ghiaccio, labbra, sei tu la sostanza. Non capisci bene la mia lingua, ma tutto il resto parlo. Baci da LA, questa era Joan Tile, che appunto sarà in giro per festival, piccoli festival in Italia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Un altro festival che ci sentiamo di consigliarvi si terrà invece dall'11 al 14 settembre in quel di Trento, nel parco naturale del DOS Trento. Si chiama Poplar e diciamo ha un costo complessivo di 78 euro come full pass per tutta la durata serata del festival, quindi non è economicissimo, ma insomma sono quattro giorni però. Sono quattro giorni di festival, esatto. Devo dire che è una bella line up, c'è tanta roba da ascoltare, tra cui anche Gioantile, ma anche insomma band che vengono da vari posti, tipo Chloe Slater, ed anche il pezzo che ascoltiamo oggi si chiama Laguna Bollente, la band, il pezzo Campari Noia. Campari Noia, il titolo del singolo, da Fantasbocco, che è il titolo dell'album da cui abbiamo tratto questo singolo. Un altro festival interessantissimo, 12, 13, 14 agosto di quest'anno, del 2025, si chiama Rock Your Head, si terrà in un paesino in provincia di Pescara che si chiama Montebello di Bertona. Nelle passate edizioni sono sempre riusciti a tirare fuori cose molto interessanti. Anche questo è un festival prodotto dal basso, con una grande attenzione alle persone che ci stanno dentro, che lo trasformano, lo fanno evolvere, lo fanno diventare sempre più bello, come dicono appunto nel loro racconto. È la 16ª edizione di questo festival. Cose interessanti come che sono passate anche a Likewise, come Riffo, Clit Dripped, insomma band e artiste che ci piacciono molto e che hanno dei contenuti che sono vicini al nostro modo di pensare e che evidentemente non sono scelte a caso. E no, non ci sto. Non ci stai? No. Va bene, non importa. Un altro festival invece che mi viene, ci pensiamo, un altro festival invece che mi viene da consigliarvi, che è un po' fuori mano, si tiene dalle parti di Manchester. Ci sono molti festival all'estero, insomma piccoli festival autoprodotti che propongono altre diciamo line up interessanti. Questo non è piccolissimo come festival, ma è un festival dove ci sono un po' tante cose. Tra le headliner c'è Nadine Shah e Goat, che è una band passata molto spesso qui a Likewise con le sue novità. E per chi fa musica e si vuole esibire e vuole trovare spazio anche altrove, non soltanto in Italia, il Manchester Psych Fest, che è appunto il festival di cui vi sto parlando, fino al 4 luglio accetta ancora delle richieste per poter suonare lì. Ci sono ancora 5 slot disponibili per andare a suonare in questo festival, quindi se vi volete proporre, scrivete al Manchester Psych Fest e magari suonerete lì. Ci ascoltiamo un altro pezzo? Sì. Ci ascoltiamo un altro pezzo, vediamo da questa scaletta. Io direi che ci ascoltiamo proprio Clit Drip, Until You Showed Me. Sarà Clit Ripped, Until You Show Me. Ma insomma, la tradizione dei festival, diciamo, organizzati a livello dal basso, come potremmo dire, è una tradizione lunga. C'è stata anche una lunga esperienza di quella che era chiamata la Lady Fest, almeno qui in Italia, partita intorno all'anno 2000 dalle parti di Olympia, Washington, diciamo, spinta da tutto il movimento di Riot Girls. Non possiamo non ricordare questo, no, questo fatto, organizzato dalle Slater Kinney, Sarah Doher, che aveva sul palco gente come Gossip, Brad Mobile, Neko Case, insomma, band che hanno fatto e fanno la storia della musica indie, e che, diciamo, poi aveva creato in qualche modo gli strumenti, aveva messo a disposizione gli strumenti anche proprio per creare dal basso la propria Lady Fest in qualsiasi posto si volesse. E questa cosa poi aveva preso piede almeno nei 15 anni successivi, sì, credo, finché insomma questa cosa non è venuta un po' a scemare. Ci sono state Lady Fest praticamente in tutto il mondo, in qualsiasi città vi venga in mente, compresa Roma. Compresa Roma, 2 edizioni ne abbiamo fatte. Esatto. Sì, sì, molto belle sono state. Sì, è vero, bei ricordi. Era il 2000, forse 10, 2012, una cosa del genere, credo. Guarda, io nella lista di Lady Fest, o comunque Lady Fest, un'edizione italiana di Roma ci dovrebbe essere segnata lì. Sì, c'è, esatto. Ma la cosa interessante è che l'anno scorso, l'ultima edizione, diciamo, testimoniata in qualche modo, di cui si trova traccia da un punto sul web, ovviamente, non personalmente, è quella dell'anno scorso a Budapest, in Ungheria dal 31 agosto al 1 settembre. Sì, infatti. E diciamo che era un festival molto caratterizzato per dare visibilità alle artiste e credo che in qualche modo abbia fatto il suo lavoro. Assolutamente, cioè, anche come diciamo forma di, diciamo, di empowerment, nel senso di comprendere come funziona un festival, che cosa gli serve, come sì, organizzarlo. Non solo per le artiste, ma anche appunto per tutta una serie di professionalità e che servono per poter fare un festival. Quindi tra chi si occupa della line up, chi organizza call, chi cerca il luogo, come si costruisce un evento di 3 giorni. No, è chiaro, impari molte cose. Volevamo citarvi un altro festival che in realtà è dislocato nel tempo e nello spazio, come piace a noi. Come piace a noi, si chiama Terraforma Exo e in realtà è un festival di musica molto particolare che non sempre, che in realtà nell'ultimo anno è passata anche più spesso del solito, likewise, sì. Perché abbiamo messo molte cose sperimentali che in qualche modo lavorano, non ultimo 2 puntate fa, con l'ambiente, con i luoghi e con le sonorità che si generano, quindi immaginatevi ovviamente musica elettronica, in qualche modo questo è l'ambito, però musica elettronica sperimentale. E è partito questo festival da Villa Arconati e si chiamava Terraforma lo scorso anno, ma evidentemente li ha preso bene e in qualche modo hanno già cambiato la formula del festival, quindi quest'anno che lo fanno in maniera diversa, nel senso che Milano resta sempre un posto centrale dove ci saranno 2 giornate al Parco Sempione e in altri luoghi della città, ma la novità di quest'anno è che ci saranno 28 e 29 giugno, quindi chi è a Milano questo weekend ne può approfittare. Andasse al Parco Sempione, probabilmente ci saranno delle cose molto interessanti da sentire e da seguire. Ma la novità è che viene anche a Roma, incredibile, ma vero, al Forte Antenne il 27 settembre, che poi ci avrà una data anche a Palermo il 25 ottobre a Villa Tasca. Quindi, come vedete, sono tutti luoghi abbastanza particolari. Io per esempio forse al Forte Antenne non ci sono stata, nonostante che viva in questa città. E che però c'è un legame anche con la nostra radio. Esatto. Ed è questo ci succederà, esatto, succederà il 27 settembre, dove in particolare questa artista che si chiama Anchisi, di cui adesso ascoltiamo qualcosa, che ha diciamo alle spalle una lunga ricerca di archivi di musica, diciamo, sì, etnografici, una... musicali ovviamente. Sì, sì. E quindi insomma di altre noi ne conosciamo, almeno io personalmente ne conosco un po' della ricerca che si è fatta qui in Italia, ma evidentemente quella che propone lei è una ricerca che viene da altri luoghi e quindi è molto interessante il suo progetto, diciamo, musicale, che mescola appunto sia la parte come posso dire del suono naturale a quello che è legato appunto alle, diciamo, ai movimenti migratori delle persone, quindi al mix. Prego. Al mix, no, volevo raccontare a chi ci ascolta il titolo che è del suo spettacolo, comunque della sua performance, che è Serpent Song, quindi canzoni di serpente, fenomeni musicali anomali e tradizioni misteriose. Quindi molto accattivante. Noi ci sentiamo qualcosa dall'EP che si chiama The Altar, lei si chiama Anchisi e il pezzo si intitola Nzinzanzo. E questa era l'ipnotica anch'essi con Zinza Zanzo, difficile da pronunciare, ma insomma se vorrete la potrete vedere live appunto in questo festival che ci davamo a Forte Antenne. Un altro 27 festival, 27 settembre, segnatevelo, bravissima, c'è tempo. L'ultimo festival che ci sentiamo di consigliarvi, o comunque dateci un'occhiatina perché magari vi è comodo arrivarci ed è abbordabile, è un festival che si chiama Secolare Festival, si tiene nell'Alta Murgia dal 24 al 27 luglio ed è un bel festival con una bella line up, molto molto attenta, Mabe Fratti, Moin, ci sarà Bitoy dalla Svezia, ci sarà Giulia Sabra, la cantautrice libanese, molte molte cose interessanti e diciamo un festival che ha nella sua, diciamo, nella sua, come posso dire, chiamata al festival stesso, l'idea di stare insieme, di cercare di come posso dire favorire ogni forma di collettività, ogni forma di comunicazione nello stare insieme, quindi un'attenzione a chi ai corpi che attraversano questo festival. Io ci sarò, quindi vi dirò poi se effettivamente le aspettative saranno diciamo ripagate, soddisfatte. Prezzi abbordabilissimi, 50 euro è il costo intero del pass per 3 giorni di festival e anche per 4 giorni di campeggio. Direi ottimo. Sono le 20.06, state ascoltando Radio Onda Rossa, dopo di noi ci sarà l'ultima puntata della stagione, spoileriamo, di Note Cose Città, ma penso che l'avessero detto anche loro la settimana scorsa. E quello che volevo dire a proposito anche un po' dei festival, che girando per guardare un po' di cartelloni di festival in giro, molti festival fanno tanto greenwashing secondo me. Questo è un altro tema interessante, perché chiaramente una parte del pubblico che va a vedere i concerti e che è molto giovane potrebbe essere oggi un attivista climatico o comunque molto attento al tema, e tantissimi festival vedo che si spacciano per green, eco, sostenibili, noi ci pensiamo, noi ci siamo, ma non so quanti di questi poi effettivamente lo siano nei fatti. Ma io penso visti che poi anche gli sponsor, visti anche come certo poi sono organizzati, la grandezza. Il problema è sempre quello, secondo me, nel senso che dipende da quanti biglietti vuoi vendere, esatto, e quante persone vuoi far arrivare, esatto, in un posto, esatto, e quante persone quel posto è in grado di accogliere senza snaturarsi e senza essere appunto in realtà diciamo sfruttato ma non goduto. Questo è il problema del capitalismo, quindi insomma a che fare con semplicemente questo, semplicemente tra virgolette ovviamente, ma insomma la questione è questa, le dimensioni che si danno agli eventi, il modo in cui è chiaro che ci vorremmo essere tutte a tutti gli eventi e ci farebbe piacere stare dappertutto e vedere tutto, non è possibile, siamo tante e in qualche modo dobbiamo secondo me anche noi stesse pensare di scegliere quello che un po' è più a nostra misura, è più vicino a noi, è più abbordabile, più insomma in qualche modo ci rappresenta, e non per il soltanto l'idea di stare in un posto, di partecipare a qualcosa per dire io c'ero, ma in qualche modo anche fare una selezione e prestare più attenzione a queste cose. Secondo me questo è un fatto e torniamo alla, diciamo un po' all'inizio, nel senso che questi festival in realtà dovrebbero moltiplicarsi, perché se si moltiplicassero nei luoghi anche appunto che non per forza ti devi fare quei 300-400, per quanto molto spesso viaggiare è bello, arrivare in un luogo, lo sappiamo, no? Vedere luoghi nuovi eccetera eccetera eccetera, ma molto spesso vediamo luoghi nuovi anche quando andiamo a 40 km da dove viviamo solitamente, perché lo sappiamo che poi non tutte e tutti nei dintorni di dove vivono sanno che natura ci sta o che luoghi ci stanno o che borghi ci stanno, quindi cioè, si può scoprire tanto anche in vicinanza. Non c'è bisogno di per forza farsi il viaggio lungo, e questo cambierebbe forse anche tanto, perché ci sarebbe più fruibilità della musica, magari prezzi più bassi, come dici tu ci sarebbe in qualche modo un impatto nei luoghi molto più contenuto, piuttosto che arrivare tutti insieme, tutti per una volta, a fare un patatrack e andare via. insomma, non è proprio già detta così, già si così capisce non che funziona non è il mai, non può funzionare mai, questo è sicuro. E quindi, insomma, questo è il nostro, questi sono i nostri due proprio centesimi di idee, di suggerimenti. Nessuno ci ha detto niente, nessuno ci ha dato niente per suggerirvi queste cose. Secondo le nostre ricerche vale la pena di interessarsi, se siete appunto in zona, ad alcune di queste manifestazioni. Ce ne saranno sicuramente delle altre, fatecelo sapere a likewise@ondarossa.info. noi vi salutiamo con la nostra sigla e vi diamo appuntamento alla prossima stagione. E vi diamo appuntamento alla prossima stagione. In linea di massima, se volete, guardate i festival, guardate gli sponsor, cioè se volete capire dove state andando e che cosa succede, se pensate che per voi non è eticamente sostenibile o moralmente sostenibile, per diverse questioni che vanno dalla natura al boicottaggio politico alla questione della Palestina, guardate un po' gli sponsor, quelli già sono un grande indicatore di chi è il festival, come è organizzato e chi lo fa. Per il resto seguite il vostro cuore, andate ad ascoltare la musica che vi piace, state bene in questi mesi e ci vediamo presto. Radio Onda Rossa continua la programmazione, quindi insomma Likewise si ferma, ma non si ferma assolutamente questa radio. Vi ricordiamo che c'è sempre modo di finanziare, di aiutare, di sostenerla con il vostro contributo. Ci sono tanti modi per farlo, basta andare sul sito, informarvi, passare qui in via dei Volsci se potete, oppure insomma scrivere alla radio. State bene, ciao ciao.